Clara Zetkin. Fu tra le più care amiche, se non la più cara, della nostra amata Rosa Luxemburg. Sappiamo che Rosa non si occupò mai direttamente dei diritti delle donne, poiché lei la sua emancipazione la sperimentò direttamente con la sua vita, come altre grandi della storia, pensiamo a Gertrude Bell o a Karen Blixen. Ma essendo amica intima di Clara, naturalmente non poteva essere indifferente alla cosiddetta questione femminile. Il fatto è che Rosa lottava per le donne lavoratrici, includendole nella categoria dei lavoratori di entrambi i sessi, mentre Clara fu femminista e suffragista di spicco, focalizzata sui diritti delle donne. Le due erano entrambe importanti figure del Partito Socialdemocratico Tedesco e condividevano il grande ideale di uguaglianza per il quale militarono tutta la vita. Nella foto che vedete come supporto a questo video, le due donne camminano a braccetto, lasciandoci una traccia luminosa di come tutte le donne dovrebbero camminare, sempre. Noi della Scuola delle Donne sentiamo derivare sempre un insegnamento speciale dalle amicizie tra grandi donne, come Sibilla Aleramo e Alba de Céspedes, come Maria Carolina di Borbone e Lady Emma Hamilton, come Elisabeth Vigée-Le-Brun e Maria Antonietta, come Isabella Gonzaga e Elisabetta da Montefeltro e tante altre. Fu Clara Zetkin, come rappresentante della Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste, a proporre nel 1910 l'istituzione della Giornata Internazionale della Donna l'8 marzo. All'epoca aveva più di 50 anni. In particolar modo Clara e le altre chiedevano il suffragio femminile. Questo naturalmente più di un secolo fa, quando il socialismo esisteva ancora come movimento di pensiero e non si era ancora rattrappito in uno sterile partito che via via è andato perdendo importanza fino a scomparire. Il nostro pensiero va ad Anna Kuliscioff, russa naturalizzata italiana, che combatteva per il suffragio femminile già da 20 anni. Clara nacque in Sassonia nella seconda metà dell'Ottocento. Ancora studentessa entrò in relazione con il movimento operaio tedesco e più avanti entrò nel Partito Socialista dei Lavoratori, che sarebbe poi divenuto il Partito Socialdemocratico. Dovette fuggire dalle leggi persecutorie di Bismarck contro il socialismo, dapprima in Svizzera e quindi a Parigi, dove prese il cognome russo del suo compagno Zetkin, per l'appunto, cognome che conservò per tutta la vita. Fin da giovanissima mise la sua vita interamente a disposizione della causa. Ebbe un ruolo di rilievo nella rifondazione dell'Internazionale Socialista. Clara, che aveva 14 anni più di Rosa Luxemburg, si schierò sempre al suo fianco. Entrambe in fuga dalle persecuzioni condivisero la militanza, le idee e la vita quotidiana. Per un periodo furono anche suocera e nuora, giacché Rosa e il figlio di Clara ebbero una relazione. Nonostante Rosa avesse 14 anni più di lui, Clara dichiarò di essere contenta della fortuna toccata a suo figlio Kostia nell'avere una tale donna come compagna. Un meraviglioso esempio di sorellanza e cooperazione tra donne. Sulle rivendicazioni dei diritti femminili e il suffragio universale, Clara scrisse e parlò in molte assemblee, anticipando quelle che oggi conosciamo come pari opportunità, e per quasi un ventennio diresse il quotidiano femminista di Gleichheit, che aveva una grande tiratura per l'epoca. E a 50 anni assunse la direzione dell'Ufficio per le politiche femminili del Partito Socialista, con la quale carica, tra le altre cose, impulsò la Giornata Internazionale della Donna. Sempre perfettamente in linea con Rosa Luxemburg, Clara, convinta che l'emancipazione delle donne fosse parte fondamentale e integrante del riscatto del popolo, organizzò la Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste contro la guerra imminente, quella che si sarebbe poi trasformata nella Prima Guerra Mondiale. Entrambe antimilitariste e orripilate dalla guerra, Rosa e Clara furono imprigionate per le loro posizioni, tra le quali ci fu il rifiuto di astenersi dagli scioperi durante la guerra. Come Rosa, anche Clara si chiamò fuori dal Partito Socialista, che invece aveva votato a favore dell'entrata in guerra. Insieme le due donne fondarono la Lega Spartachista, che diede poi origine al Partito Comunista Tedesco, di cui Clara divenne ben presto personaggio di spicco, mentre Rosa veniva assassinata. Quando Clara Ebbe notizia della morte di colei che aveva definito la sua unica amica, ne fu devastata e giurò che avrebbe continuato la lotta anche a suo nome e che sarebbe stata l'editrice dei suoi testi. Cercò un dialogo con Lenin per ottenere traguardi sociali per le donne attraverso la militanza politica, ma se ne allontanò quando si rese conto che lui non aveva realmente a cuore l'interesse delle donne, quanto piuttosto intendeva usarle per i propri fini. Quindi Clara propose la creazione di un congresso internazionale apartitico di donne, poiché di qualunque estrazione sociale se fossero, avevano il fine comune dell'emancipazione dalla gabbia patriarcale. Clara chiedeva per le donne il diritto al lavoro, alla parità di salario, alla previdenza sociale e all'aiuto per le madri lavoratrici per le quali fece istituire asili e mense. Clara fu consapevole che la rivoluzione del popolo avrebbe dovuto comprendere i diritti delle donne, direttamente derivanti da una legislazione che abolisse la discriminazione dei sessi all'interno del matrimonio, incluso il fatto che la proprietà fosse riservata esclusivamente agli uomini. E fu anche consapevole che le donne avrebbero dovuto divenire coscienti nel profondo dei loro diritti per poter esercitare sufficiente pressione all'esterno, senza ricadere nella pratica alla sottomissione derivante da millenni di addestramento alle prevaricazioni patriarcali. Era perfettamente concorde con Rosa nel sostenere che l'abolizione del capitalismo e l'equa distribuzione dei mezzi di produzione e delle risorse fosse alla base dell'emancipazione femminile, come nelle prospere comunità matriarcali kabile di cui parla Rosa nel suo L'accumulazione del capitale, e che la vittoria sarebbe venuta in conseguenza non della lotta tra donne e uomini, ma della loro unione contro il capitalismo. Il nazismo costrinse Clara a fuggire in Russia, dove lasciò il corpo a 76 anni. Clara Zetkin è sepolta sotto le mura del Cremlino. Come sappiamo, la storia non è cambiata. Tutte le rivoluzioni si sono trasformate in dittature, i burocrati divenuti oligarchi hanno soffocato l'impulso alla ribellione e le donne hanno continuato e continuano tutt'oggi ad essere, come scriveva Simone de Beauvoir, il secondo sesso. Nondimeno, il fulgido esempio di queste donne che mai per un istante pensarono a se stesse e alla propria incolumità sono fari di luce che ci guidano e ci ispirano a trovare un altro modo, più femminile e perché no, più esoterico, per raggiungere il nostro obiettivo.